Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio a Claudio Maisoniat. Prima di presentarvi Claudio Maisoniat, gli chiediamo perché sotto le lenzuola di Adriano Celentano. Ma perché, prima di tutto, io sono rimasto a quel Celentano lì di non so quante decine di anni fa. Quindi ricordo un po' la giovinezza. Che secondo me era il Celentano più intelligente, anche se non penso che i testi, la musica, non so, non fossero suoi. Comunque cantava canzoni di questo genere, e questa è una canzone umanissima e nello stesso tempo molto molto in sintonia con una cultura di fondo cristiana, che era quella italiana di allora, ancora a livello di una certa facciata, che oggi non c'è più. Allora, Claudio Maisoniat, giornalista svizzero, direttore del giornale del Popolo svizzero-italiano, perché sì, come avete sentito è della Svizzera italiana, direttore del giornale del Popolo di Lugano, che è un quotidiano cattolico posseduto dalla Curia di Lugano, uno dei tre quotidiani della Svizzera italiana, insieme a quelli Ticino della Regione. Ecco, tre quotidiani per una realtà di 350-380 mila persone. Tra l'altro, in Svizzera, Claudio Maisoniat è stato anche giornalista della televisione svizzera e ha due reti televisive, alcune reti televisive private, tre reti radiofoniche, altre reti televisive private. È un po' la società dell'informazione, la Svizzera italiana. È vero, tra l'altro di quotidiani da qualche mese ne è arrivato un quarto gratuito, che ha portato parecchio scompiglio, soprattutto a livello pubblicitario. Ma io cerco sempre di spiegare che queste 300, meno 320, 330 mila persone costituiscono uno Stato. I cantoni svizzeri sono degli Stati che cedono una piccola parte di sovranità alla Confederazione, con un Parlamento, un governo, una magistratura, tutto autonomo. E l'opinione pubblica ama essere informata pluralisticamente, è disposta sia come aziende sia come abbonati, perché noi viaggiamo quasi tutto in abbonamenti, noi quotidiani, perché le poste funzionano, grazie a Dio ancora, la gente è disposta a pagare per avere un pluralismo informativo di questo genere, che è nel mondo, credo, unico, perché quattro quotidiani adesso, più le televisioni, la radio, eccetera, per 300 un quartiere di Milano, certo, è una cosa che fa girare la testa, fuori dal federalismo svizzero, che è una cosa un po' speciale. Ecco, una cosa speciale, poi l'approfondiremo anche questo aspetto del federalismo svizzero. Però, ecco, resterei un attimo in questo inizio a parlare proprio dell'italianità, perché anche la scelta appunto di Celentano, della cultura italiana, vuol dire che c'è un legame molto forte tra questa realtà del Canton Ticino, della Svizzera italiana, e anche forse degli italiani nella Svizzera interna, degli italiani non solo italiani emigrati dall'Italia alla Svizzera, ma anche gli svizzeri italiani emigrati dalla Svizzera interna che mantengono un forte legame con la cultura italiana. Com'è vissuto il rapporto con l'Italia per adesso dal punto di vista culturale? È una cosa abbastanza difficile da far capire agli italiani, ma io la vivo così, l'ho sempre vissuta così. Cioè, se un ticinese, cioè uno svizzero di lingua italiana, non si medesima totalmente nella lingua e cultura italiana, non avrà mai una sua identità culturale. Noi siamo culturalmente, linguisticamente, totalmente italiani. Dobbiamo essere fino in fondo, da Dante a Celentano, ma insomma dobbiamo avere un radicamento assolutamente indiscutibile. Ecco. Poi, su questo si innesta qualche cosa d'altro, cioè una convivenza che dura da secoli con dei francesi francofoni altrettanto appartenenti a una cultura francese, dei tedeschi appartenenti, che sono maggioritari, a una cultura tedesca, e da secoli si è tentata ed è riuscita curiosamente molto bene una convivenza politica che quindi in qualche modo prefigurerebbe anche un certo tipo di Europa. Ecco, comunque questo tipo di convivenza politica fa parte della nostra identità svizzera, però se non c'è prima quella culturale, o francese o tedesco o italiana, siamo dei poveretti frustrati che poi cercano scuse, parlano dialetto per dire che non sono italiani, anche i tedeschi parlano svizzero-tedesco per dire che non sono tedeschi, alla televisione fanno i dibattiti di politica estera in dialetto, no, questo vuol dire che non funziona. Invece quando uno svizzero è calato dentro fino in fondo in una delle tre culture principali europee, allora può anche essere uno svizzero. Comunque ecco, l'identità svizzera è molto forte anche da chi vive appunto strettamente legato a una cultura che è di altri paesi. Sì. Quindi c'è questa identità che in pratica farà in modo che la Svizzera resterà sempre la Svizzera, non si confonderà mai con l'Europa, un'Europa che peraltro ha molte difficoltà da par suo. No, sono sette secoli di convivenza nostra in cui abbiamo costruito, devo dire, non io, i nostri antenati, non la nostra generazione, abbiamo costruito anche un sistema istituzionale, costituzionale quasi perfetto. Non è tutto, ma è un bel appoggio avere questo. E poi questa convivenza di sette secoli, non è uno scherzo, che ha dovuto passare attraverso un sacco di crisi, anche militari, momenti veramente difficili, la riforma per esempio. Ecco, perché uno degli aspetti è proprio quello anche della convivenza di religioni diverse. Certo, non solo c'è questo aspetto di diversità culturale e linguistica, c'è anche l'aspetto della rottura a partire dalla riforma tra protestanti e cattolici. Poi l'arrivo di tante altre, con gli immigrati, di tanti altri aspetti culturali e religiosi. Però c'è una, già a partire dalla convivenza delle tre lingue, delle tre culture, c'è una capacità di accoglienza, di adattamento per gli altri immigrati che è notevole. Non ci sono problemi, neppure con i musulmani, salvo la storia dei minareti, ma è una stupidaggine. Quindi questo non si perderà mai. E l'Europa, come dicevo, noi avremmo pensato che si sviluppasse in questa chiave federalistica, non dico imitandoci, ma che qualche cosa potessimo dare come input alla costruzione europea a partire dalla nostra esperienza, dalla nostra costruzione costituzionale, e noi lo speravamo, invece è andato. Beh, sì, ci sono alcuni elementi della realtà svizzera. Pensiamo all'esercito, pensiamo alla Banca Nazionale, pensiamo al Franco Svizzero, che sono elementi di fortissima unità. Invece in Europa si è ancora sia sul fronte della difesa, che è stata una delle prime battaglie mancate dell'Europa negli anni 50 addirittura, sia sul fronte poi dell'euro, che si è fatto l'euro ma senza dare alla banca centrale quei poteri che invece la Banca Nazionale di Svizzera ha e ha dimostrato di avere, per esempio negli ultimi mesi difendendo a spada tratta e con successo il cambio della moneta euro-franco. Quindi è una realtà sicuramente che dal punto di vista proprio strutturale vede l'Europa ancora lontana. Sì, però più che per questi aspetti citati, proprio per l'incapacità di concepirsi federalisticamente, cioè a partire da entità nazionali esistenti che cedono certamente parte della propria sovranità, ma dentro una costruzione che sia profondamente rispettosa di questa entità e anche della democrazia, che è denominatore comune. Ora, se si guarda la costruzione europea, questa sorta di parlamento ridicolo che non si sa bene cosa stia a fare, questa commissione che crea e riproduce burocrazia e decina, cioè questi consigli di minimi, cioè adesso vediamo che razza di marasma si sta creando attorno alla crisi dell'euro, certo. Non si sa chi decide, cioè c'è alla radice anche secondo me un deficit istituzionale nella costruzione che non è veramente federalista. Beh certo, la Commissione Europea non so di quanti membri, ma sicuramente più di 27 quanti sono i paesi membri dell'Europa, è qualcosa di molto diverso dal Consiglio Federale Svizzero fatto di 7 membri che peraltro rappresenta l'80-90%, e quindi c'è l'unità nazionale, la solidarietà nazionale, è una realtà praticata di fatto, direi quasi istituzionalmente all'interno della realtà politica svizzera. Sì, non è scritto, ma tutto il Parlamento che nomina i sette ministri, insomma i sette membri del governo principali, dopo loro dei collaboratori, è attentissimo il Parlamento a rispettare tutto gli equilibri, a ponderare tutte le rappresentanze, i cantoni, le lingue, le religioni forse adesso non più, ma c'è un'attenzione enorme, no? Per 10 anni non c'è più stato un ticinese in Consiglio federale, allora adesso c'è una forte pressione non solo dei ticinesi ma anche degli altri, dobbiamo alla prossima occasione mettere, insomma, non sono solo i partiti, poi ci sono anche i partiti che fanno i loro giochi come dappertutto, no? Però i partiti devono tenere conto di tutte queste diversità e che non devono essere punite o schiacciate nella misura in cui sono piccole, ma anzi, nella misura in cui sono piccole vanno protetti di più. Questa è un po' la mentalità, la Svizzera, la svizzeritudine. Certo, che è una realtà forse che è diversa anche a livello cantonale. Mi pare che i consiglieri di Stato, cioè i ministri del Canton Ticino, che tra l'altro Stato e Repubblica del Canton Ticino, sono solo 5 e rappresentano tutti i maggiori partiti sul fronte appunto della politica ticinese. Sì, perché c'è un sistema proporzionale assoluta, quindi ci devono entrare tutti i rappresentanti di partiti che abbiano raggiunto una certa soglia, che adesso non mi ricordo, attorno al 10-12%, e a questo punto poi si ritrovano tra 5 rappresentanti in un governo, magari 4 o addirittura 5 partiti, che vanno dalla destra alla sinistra, per intenderci, e si devono accordare, cioè devono governare insieme. E questo anche nella nostra tradizione, che ci devono riuscire, altrimenti abbiamo anche gli strumenti per mandarli a casa. Ecco, questo è anche un passo diverso appunto rispetto all'Italia. Com'è vista l'Italia dal Canton Ticino, dalla gente? Ma per l'aspetto che dicevo prima, per chi ha un minimo di coscienza di sé, come la madrepatria culturale, linguistica e culturale. Però per l'aspetto politico e con tutti i corollari, gli epifenomeni istituzionali, eccetera, è vista, mi scuso, con compatimento, se non con... con amarezza forse. Ma anche un po' di amarezza, sì, e con anche un atteggiamento derisorio, soprattutto negli ultimi 20 anni, direi. Ecco, eppure l'Italia è un po' il motivo della ricchezza, per esempio, del Canton Ticino. Senza l'Italia il Canton Ticino sarebbe ben diverso, ne avrebbe un po' meno banche. Vero, ecco. Verissimo. Questo è un dato di fatto. Vabbè, bisognerebbe sempre vedere come mai è capita questo. Una volta invitato a una trasmissione televisiva italiana mi sentii dire che la Svizzera è un paradiso fiscale e risposi, può darsi, a noi sembra normale purgatorio fiscale a noi svizzeri, però quando vedo la situazione italiana dico: il vostro è un inferno, e quindi può darsi che a voi sembri un paradiso, perché qui è l'inferno fiscale, quando c'è un fisco che ti preleva il 50% del reddito a un'azienda o oltre. Adesso, cioè, è chiaro che la gente cerca di scappare, di mettere in salvo i risparmi, le aziende, le famiglie, di mettere in salvo i risparmi. Non credo che sia solo egoismo, e certo, il sistema non funziona. Beh, più. Qualche elemento di egoismo indiscutibilmente. Sì, ma anche di evasione fiscale, a cui la Svizzera in fondo ha dato un po' appoggio, soprattutto fino a qualche anno fa. Poi sono entrate nuove norme, nuove procedure, nuove cautele, nuovi controlli. Però c'è stato sicuramente da parte svizzera, se ne è approfittata di questa realtà italiana. Sì, e non solo italiana. Si è approfittato di realtà nazionali dove la pressione fiscale è ritenuta eccessiva da parte della popolazione, delle aziende, delle famiglie, eccetera, e che hanno portato soldi neri, soldi non dichiarati nelle banche del nostro paese. Devo dire che da 20 anni, quando la questione è stata messa bene a fuoco, noi si è detto, va bene, restituiamo tutto quello che il fisco italiano dovrebbe raccogliere da questi capitali, no, ma manteniamo l'anonimato di coloro che li hanno depositati in Svizzera, perché da noi il segreto bancario è, fra virgolette, sacro, vale a dire la proprietà è della persona, della famiglia, dell'azienda, prima che dello Stato. Lo Stato non mette il naso se non per ragioni di gravissima necessità penale o d'altro genere, quindi prima c'è quello, prima c'è la persona, la famiglia, poi lo Stato, anche nella gestione del proprio patrimonio, della proprietà. E perciò il segreto lo vogliamo mantenere. Questo sistema Rubik di cui si parla molto, abbiamo fatto un trattato con la Germania sub iudice, cioè che il Parlamento tedesco deve approvare a settimane, molto molto delicata la situazione. Se passasse, ecco, questo sarebbe la definitiva sanzione di questo sistema, per cui la Svizzera mantiene il segreto bancario ma non è più un paese di evasione dove ecco, si accoglie. Vedremo tra poco anche alcuni particolari di questa possibilità che anche l'Italia possa fare un accordo di questo tipo con la Svizzera. Diamo però lo spazio alle notizie sul traffico. Io amo lei, soltanto lei. Che mai l'avrò tradita? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ancora con le note di Adriano Celentano di qualche decennio fa. Riprendiamo il nostro incontro con Claudio Mesoniat, giornalista, direttore del Giornale del Popolo di Lugano, dopo essere stato per molti anni giornalista della televisione svizzera, quindi uno svizzero del Canton Ticino, di lingua italiana. Stiamo parlando anche dei problemi, dei rapporti tra l'Italia e la Svizzera, di questa possibilità di arrivare a un accordo fiscale che da una parte garantisca a chi ha dei depositi in Svizzera il segreto di questi depositi, ma dall'altra parte garantisca anche agli stati e ai cittadini che hanno portato i soldi in Svizzera di avere le ritenute fiscali che avrebbero se questi soldi non fossero stati portati in Svizzera. Un accordo che si chiama Rubik, dal famoso cubo, che si può girare in tanti modi, però poi alla fine il risultato è lo stesso: il segreto bancario resta. E questa è la logica di questi accordi Rubik che la Svizzera ha. Resta e resta il dovuto al fisco degli altri paesi. Gli altri paesi. Ecco, con la Germania è un accordo già fatto, ma che deve essere approvato dal Parlamento tedesco. Poi è stato fatto un accordo simile con la Gran Bretagna. Con l'Italia sono in corso dei colloqui che si prevede che in autunno, ma forse anche l'Italia aspetta un po' vedere cosa succede in Germania prima di arrivare a un accordo di questo tipo. Già Monti all'inizio aveva detto non faremo nessun accordo, poi quando l'Europa ha detto accordi di questo tipo sono compatibili con le regole europee ha cambiato anche un po' idea, anche perché da questo accordo potrebbero arrivare alcuni miliardi di euro nelle casse italiane. Ma le banche svizzere come vede questo tipo di accordi? Ma secondo me non sono proprio felice e beate, però fanno buon viso cattivo gioco e hanno fondamentalmente accettato il Rubik con tutte le conseguenze che potrebbe avere, cioè la partenza di molti capitali che non vogliono pagare queste aliquote liberatorie iniziali. Più che il prelievo fiscale sui redditi di questi capitali, quello che fa paura è l'aliquota iniziale per avere questa sorta di condono, no? Pur mantenendo l'anonimato. E con i tedeschi è stata fissata tra il 21 e il 41% del capitale. E si dice che in Italia se si fissassero delle aliquote simili tutti questi capitali svanirebbero tra Singapore e Hong Kong, non lo so dove, ma non accetterebbero di pagare allo Stato il 25, il 30%, cose del genere, come mi pare che il Partito Democratico qui in Italia abbia chiesto di recente in un suo studio, una sua ufficio studi. Peraltro avevano chiesto anche di riaprire quello che era stato lo scudo fiscale, cioè il rimpatrio dei capitali che era stato attuato negli anni scorsi con un'aliquota del 5% e che garantiva, ma a chi faceva rientrare i capitali in Italia, appunto poi anche in Italia, l'anonimato. Quindi anche l'Italia in un certo senso ha dato spazio a qualche forma di segreto bancario. Comunque le banche più o meno hanno accettato l'idea. C'è molto dibattito anche a livello politico. A essere più banchieri delle banche sono alcuni partiti come il partito maggioritario ancora oggi in Svizzera, Unione Democratica di Centro, quello di Blocher per intenderci, che sostengono che Rubik sarà un disastro, una devastazione per la piazza finanziaria svizzera, tutti fuggiranno i clienti e le banche si accorgeranno. Se le banche stesse dicono a noi va bene così, mi domando perché dobbiamo essere più papisti del pago. Ritornando un po' più sul generale, l'immagine che appunto che dall'Italia sia della Svizzera è un paese delle banche, ma anche il Canton Ticino, che pur ha un settore finanziario forte, direi fondamentale per la propria economia, non è solo banche. No, ci mancherebbe. E tra l'altro anche un paese, un piccolo paese, una piccola regione con un tessuto industriale non forte come quello del Nord Italia, della Brianza, della Padania in genere, della Brianza in particolare, non così forte, in parte bisogna dire anche qui costituito da aziende italiane che o da decenni o anche di recente sono trasmigrate lì per varie ragioni, varie opportunità. Non abbiamo però un'economia che realmente negli ultimi 50 anni si è fondata un po' troppo sul settore bancario. Adesso gli scossoni, le crisi ci stanno facendo capire che si deve differenziare, però il settore dei servizi è ampiamente sviluppato. Siamo riusciti a costruirci la nostra università dopo 150 anni di tentativi e di litigi. 17 anni fa, insomma nel 95, siamo riusciti a creare un'università a Lugano che si sta espandendo, sta crescendo, è partita con 3 facoltà, adesso ne ha quasi 5, avrà anche medicina tra poco. E questo è un impulso importante anche per il mondo economico e per le strutture produttive del cantone. Ecco, tra 3 anni mi sembra verrà inaugurata anche questa Art Transit, la galleria di base del Gottardo, che permetterà di arrivare da Lugano a Zurigo in poco più di un'ora, 1 ora e mezza. Quindi vuol dire che la Svizzera italiana propenderà un po' più verso il resto della Svizzera che non verso l'Italia. Potrebbe essere un collegamento, tanto più che il nostro problema però è che questa super galleria dovrebbe servire per portare poi su rotaia i carichi dei camion, le merci che solitamente viaggiano su gomma, verrebbero trasferite lì e rapidamente attraverserebbero la Svizzera. Il punto è che riemergerebbero a Lugano o a Chiasso e poi che fanno? Si intaserebbero, perché l'Italia dovrebbe continuare garantendo perlomeno delle linee ferroviarie altrettanto efficaci. Non, per il momento si discute, si teme anche che si possano poi creare dei grumi. Delle, certo, perché mentre la Svizzera sta realizzando questo super traforo di oltre 50 chilometri sotto le Alpi, che quindi renderà anche più corta l'intera Europa, non solo la distanza tra Lugano e Zurigo, ma anche quella tra Reggio Calabria e Amburgo. Ecco, mentre la Svizzera sta realizzando con un grande sforzo finanziario che affronta unicamente da sola anche certo, perché tutto il territorio svizzero. Ecco, quando queste merci arrivano poi a Chiasso, trovano ancora l'Italia ferma sul fronte dell'ammodernamento delle infrastrutture, non sanno bene dove andare. Questa... Però secondo me abbiamo sbagliato anche noi a far tutto da soli. Voi svizzeri? Sì, noi svizzeri, perché se avessimo fatto come per il traforo del Gottardo, il primo grosso traforo ferroviario del Gottardo, seconda metà dell'Ottocento, avremmo coinvolto, come allora Escher, questo piccolo genio anche della finanza, tra l'altro, che creò anche la Banca Credito Svizzero, no? E lui mise in piedi questa Gotthard Bahn, era una compagnia privata, però cercò finanziamenti in tutti gli stati d'Europa, a livello privato e pubblico, e il Gottardo fu costruito con finanziamenti. E questo, secondo me, se lo si fosse ripetuto, avrebbe probabilmente indotto stati come l'Italia a essere magari un pochino più solleciti nel prevedere le continuazioni, gli sbocchi di questa super galleria. Certo. Torniamo un po', visto che ci avviamo un po' alla conclusione anche di questo nostro incontro, con Claudio Mesonià, direttore del Giornale del Popolo. Gli chiedo che cosa vuol dire essere direttore di un giornale cattolico in una realtà come quella svizzera, come quella del Canton Ticino, della Svizzera di lingua italiana, sicuramente multiforme, in cui forse la presenza dei cattolici resta ancora una presenza determinante, una presenza forte, in cui non c'è uno scontro di religioni, anche se ovviamente anche i protestanti e gli evangelici hanno della loro presenza in Svizzera, però resta una realtà cattolica. Cosa vuol dire essere direttore di un giornale cattolico? Quale impegno, quale responsabilità? Ma io credo che voglia dire, come in tutti i mestieri, in tutti i lavori, in tutte le presenze professionali di cattolici, qui c'è il vantaggio appunto di avere un tetto, quindi poi anche una linea editoriale, una proprietà della testata che è cattolica, e quindi anche dei collaboratori, non tutti, ma anche credenti. Vuol dire, come sempre per i credenti impegnati in qualsiasi tipo di opera di lavoro, cercare di vivere lì dentro la propria fede, perché emerga che cattolicesimo vuol dire apertura sulla realtà a 360 gradi. Io non credo che un giornale cattolico, è così, non ho fatto, spero, debba parlare di preti, suore, vescovi e papa tutti i giorni da tutte le parti, debba dare anche su questo un'informazione corretta, perché gli altri media non la danno di solito, un'informazione corretta sulla Chiesa cattolica, però debba entrare dappertutto, dalla minuta cronaca locale dei piccoli villaggi di montagna ticinesi, fino alla politica internazionale, alla cultura, al Festival di Locarno, alla grande politica, alla primavera araba, con un punto di vista che, rispetto ad altri media, allarga gli orizzonti, va magari anche a volte un po' più in profondità per cercare le motivazioni di quello che accade. Cioè, ecco, è un po' una gara, secondo me, no? Per mostrare se sia vero, se sia conveniente avere una fede, umanamente parlando e quindi anche professionalmente parlando. Quindi è una grossa responsabilità, deve uscire un prodotto che anche un non credente guardandolo dice: ma qui c'è qualche cosa in più, c'è qualche cosa di meno, speriamo di no. Ecco, forse è anche difficile suscitare però la curiosità, l'attenzione in questo mondo. Abbiamo parlato all'inizio della società della comunicazione, in cui ci sono tanti messaggi, tante le fonti di informazione. Adesso ci aggiungiamo anche i social network, internet, i telefonini che ci connettono con la realtà, però in questa dimensione forse il rischio della dispersione resta molto forte. Il rischio della dispersione è fortissimo e soprattutto i giovani hanno il cervello centrifugato da questa tempesta di messaggi che arrivano da tutti i tipi di media. In sé questa moltiplicazione di strumenti è positiva, cioè sono strumenti, gli strumenti si usano bene, sono sempre una conquista, un guadagno. Serve appunto, può servire che ci sia qualcuno che ordina questo, no? Questa pioggia di informazioni, di notizie che ci cade addosso tutti i giorni da più fonti, che cerca di ordinarla, di selezionarla, di ordinarla, di valutarla, no? Ecco, dare un valore alle cose. La carta stampata e il giornale che sulla prima pagina ti dà un'idea di cosa sta realmente capitando e poi prova anche a commentarlo, giornale che si potrà guardare sull'iPhone o sull'iPad, per carità, non solo sul cartaceo. Ecco, però questo lavoro che noi facciamo può servire a evitare che la grande messe di informazioni diventi caos nella testa della gente. Ecco, questa è una grande responsabilità per i giornalisti, per tutti i giornalisti, avere appunto la curiosità di fondo, la capacità di portarla, di fare anche delle scelte di valore, di proporre queste scelte senza imporle. Grazie, allora, grazie a Claudio Besogliato, auguri per l'impegno come direttore del Giornale del Popolo di Lugano, quotidiano cattolico della Svizzera italiana. Si chiude qui il nostro incontro, buona domenica, buon pomeriggio a quanti ci hanno ascoltato, così come ringrazio Carmelo Lauricella in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.